San Gennaro, re dei padroni, togli la linea a Barisoni. San Gennaro, mio gran profeta, fa che Parenzo assuma Sabaeta. Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stronzo che non sei altro. Ma che dici? Una volta facevi il giornalista anziché insultare. Pagato da Assad. Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto, pronto, prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno, non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Caro Parenzo e caro Cruciano, cerca di far diventare questa una vera zanzara. Se no a questa zanzara lo sai cosa facciamo? Prendiamo il DDT e l'ammazziamo. Solo e solamente una cosa io chiedo alla zanzara: sentire David Parenzo combattere! Parenzo, qui non che ci puoi. Ha capito Parenzo? Anche dalla Cina te lo diciamo. Assumi la ROM. Oddio, colpo di genio. Parenzo, assumi Sabaeta, la Rom, per accudire Ciro, il tuo figlio napoletano. Musichetta, sigla, poesiola, per fare in modo che Parenzo assuma la Rom. Parenzo, assumi Sabaeta, dalle una paghetta, dalla strada puoi levarla e che devi pagarla, devi essere coerente, sii bravo con la gente. Assumi la Rom! Lu vollu muluni! Questa qua che dice lo vuoi lumeluni mi dà fastidio quanto a te dà fastidio quella che dice quella che parla là della dell'Imbus, quella dell'Imbus. Io se devo farti un girare un caro saluto da New York da David Parenzo, un caro saluto da New York da cazzo, David Parenzo si sente benissimo, figa, una cosa pazzesca, c'è cioè una cosa New meravigliosa, amico mio, sente del sole 24 ore, il cuore della finanza globale a Wall Street, niente miserabili, gente in giacca e cravatta, gente che fa denaro, gente che fa i miliardi, che governa il mondo. Siamo qui nel cuore dell'impero, dell'impero americano. Grazie New York. Ciao, qui che ore sono? Qui sono le 12:38, amico mio. C'è ancora il mondo da conquistare. A due passi da me ci sono i funzionari di Wall Street, quelli con la giacca blu, quelli che si vedono in televisione, che governano e cambiano il mondo. E non sanno neanche che cazzo è il Donato Navarese. È un mondo diverso questo, è un altro mondo. Grazie America, the country of freedom. Taci miserabile! Benissimo, grazie. Benissimo. Allora, dovete sapere che Parenzo è stato invitato dalla Fondazione Soros. Beh, per progettare, diciamolo. No, diciamolo. Per progettare insieme come emissario in Italia, diciamolo subito. Ecco. La nuova grande invasione. Intanto lo diciamo. Il 9 novembre, credo, sarò ospite dei signori di Casa Pound. Se tu dici che io sono al soldo, cosa non vedo? No, non ho detto che sei al soldo. C'è un convegno. Ho detto che sei molto vicino alle posizioni di Soros. Si può dire o non si può dire? Sei vicino alle posizioni di Soros. Io penso Soros, che è l'uno di Karl Popper, la Open Source. Non è Totò Riina. Dici, non è Totò Riina. Lui è per la, è, ha subito il comunismo, ha vabbè, subito la dittatura comunista in Ungheria, ha subito la dittatura nazista. Sì, va bene, d'accordo. Ed è per la società aperta, la società liberale, la società non chiusa, sì, senza vuole, muri. Vuole tanti immigrati, vuole tanti immigrati in Europa. Vuole tanti immigrati. Non gliene frega lui. Però ragazzi, possiamo parlare. Esatto, possiamo parlare di cose un po' più concrete. Cioè, possiamo iniziare la trasmissione iniziando con la vergogna laziale. Possiamo parlare della vergogna che da qui, dalla vergogna laziale. Cosa è successo? Intanto diciamo subito cosa bisognerebbe fare: chiudere lo stadio, cioè i laziali per un anno non possono più mettere piede allo stadio. Ma che c'entra? Partiamo dalla, pena, poi vediamo che è successo. Posso raccontare agli ascoltatori quello che è accaduto, quello che sta accadendo? Allora, il capo della Lazio, il presidente della Lazio, il signor Lotito, ha commesso un grave errore. Qual è stato l'errore che ha commesso il signor Lotito? Il signor Lotito ha, siccome la curva della Lazio era stata chiusa, secondo me sbagliando, per dei burazzisti durante la partita con il Sassuolo, cazzata pazzesca, si può dire di chiunque, era stata chiusa la curva, sbagliato secondo me. Comunque Lotito, per aggirare questa cosa, la società della Lazio ha dirottato tutti quelli che stanno in curva nord nella curva sud, che di solito, come sapete, come molti sanno, è presidio dei tifosi della Roma. I tifosi della Lazio, per lasciare un ricordo, i deficienti più che altro, più che delinquenti, non tutti sono delinquenti, sicuramente deficienti, per lasciare un segno della presenza, un ricordino ai tifosi della Roma, hanno attaccato vari adesivi, hanno fatto varie scritte. Tra queste, che cosa c'è? La scritta, credo, romanisti ebrei. E poi, soprattutto, la figura di Anna Frank. La figura di Anna Frank con la maglietta della Roma, la faccia di Anna Frank. Ora, come per dire romanisti per dire, ebrei, no? Cosa terribile, come per uguale. Attaccare. Vi facciamo fare la fine di Anna Frank, insomma, una cosa terribile, una specie di insulto, una specie di insulto, i sopravvissuti ai campi di sterminio. E qui dico una cosa vera: quando hanno visto magari tifosi della Roma o anche tifosi della Lazio, penso al mio grandissimo amico Clemente Mimmun, ad esempio, che non facciamo, no, che è tifoso della Lazio, certo. Ma sì, sicuramente, ma insomma, è un grande tifoso della Lazio. Assolutamente. Ma voglio dire, ma come, che pena dunque, secondo ci deve te, essere secondo per te questi che qui? Cos'è? Chiudere ai tifosi a tutti i tifosi il della razzismo non deve più entrare negli stadi. Ci vogliono sanzioni esemplari. Dunque chiudere lo sanzioni stadio esemplari. Chiudere lo stadio tifosi, e quelli che non c'entrano un cazzo. Me ne frego. Bisogna prendere le distanze da questa gente. L'unico segnale che si può dare è quello di chiudere la curva, le curve, mica alla gente normale che va coi bambini, coi figli, con le fidanzate, con le mogli. Le curve vanno chiuse quando ci sono episodi di razzismo. La curva della Lazio per un anno va chiusa. Intanto, ragazzi, bisogna fare gli omaggi. Un caro saluto da New York da David Parenzo. Intanto bisogna fare gli omaggi al signor Feltri, signor Feltri, che ieri in un'intervista alle Iene ha dato il massimo, il top assoluto. Dispiace ritornare sulla vicenda di Weinstein, Asia Argento, però domina le cronache, soprattutto domina, se vogliamo, anche le discussioni, no? Io sono andato in diversi posti questo fine settimana e si discuteva solamente di questa cosa qua. Lo so, pare una follia, ma si discute ancora di questo. Dunque non mi rompete i coglioni perché parli sempre di Asia Argento, perché parli di Weinstein, eccetera, perché si aprono vari fronti anche italiani. Ci sono state diverse interviste di persone che, ovviamente a scoppio ritardato, denunciano: sono stata stuprata da quello mi ha fatto la molestia, quello ha tirato fuori l'uccello, quell'altro mi ha ospitato e mi ha accolto con l'accappatoio. Tutto a scoppio ritardato, tutto dopo, naturalmente, niente, tutto però. Dopo. Feltri, comunque, vai. Se mai ha ottenuto forse dei favori. Perché dice così? Non riesco a capire. Lei dice che è stata violentata. Io non ho mai visto uno stupro consensuale. Lei ne ha visti ancora? Non è che è consensuale se uno non è legato. Ma se lo fa, perché lo fa? Perché ha paura, perché paura rimane di bloccata. Di un uomo potente. L'uomo potente cosa ti può fare? Ti può uccidere? Non credo. Al massimo non ti concede dei favori. Invece lei teneva di più, si parla sempre in teoria, ai favori che poteva ottenere in cambio delle leccatine, e se l'è fatta fare volentieri. Ma cosa intende lei per abuso? Quello che avviene attraverso un gesto di violenza. Non so neanche come si faccia, perché io ho sempre fatto fatica con quelle che me la davano volentieri, si figuri con una che non me la voleva dare. Ma una fatica terribile deve essere, bisogna avere un fisico della Madonna. Perché secondo lei è pieno di donne che vengono picchiate, stuprate dal proprio marito e rimangono lì a casa? Non è che sono troie queste donne. Non sto dicendo troie, sto dicendo che sono i rapporti della vita. La vita è questa, il mondo è questo. È l'umanità che fa schifo, non è il produttore. Perché? perché secondo lei è pieno di donne che vengono picchiate, stuprate dal proprio marito e rimangono lì a casa. Non è che sono troie queste donne. Non sto dicendo troie, sto dicendo che sono i rapporti della vita. La vita è questa, il mondo è questo. È l'umanità che fa schifo, non è il produttore. Io non mi sento di giudicare. Ma io non giudico. Però mi fa ridere che vent'anni dopo viene a denunciare un fatto, capisce che la genuinità e la spontaneità va leggermente a farsi benedire o no. Ci sono donne che non denunciano mai perché hanno paura. Paura di che? Paura di un cazzo. E la mia non sarebbero state credute perché era un uomo potente. Ma cosa fa un uomo potente? Ti rovina. Come ti rovina? Si lavora solo con questo? O si lavora anche con altri, Se non denunciano, si arrangino. Feltri allo Stratop. Facciano il loro dovere, denuncino. Se non lo fanno, si arrangino, scusa. Dipende dal carattere delle persone. Vabbè, dai, si arrangino allora. Si arrangino. Ma il top, caro Parenzo, è il finale di Feltri in crescendo, direi. Una vergogna rara, ma veramente. Ma che vergogna, numero uno. Poi ne parleremo, dice quello che auguro. Pensa. Pane al ma pane, senza infingimenti, dire? Dice la verità, schietta, il mondo è questo, ragazzi, il mondo è questo. Se avete le palle denunciate, altrimenti non rompete il cazzo, dai, su, questa è la realtà è questa. Io faccio da 35 anni il direttore, a parte che io non ho mai allungato le mani su nessuno, anche perché faccio fatica a difendermi da quelle che mi volevano scopare, quindi non è vero che le donne povere vittime, no, è anche l'esatto contrario, sembra che le donne ti diano chissà che cosa, è una roba che dura 5 minuti, fra l'altro il piacere dura poco, la fatica è tanta e la posizione è ridicola. Ci sono le donne che si lasciano intimidire, quelle che non si lasciano intimidire. Ma vedete che c'è anche quello che si fanno intimidire. Ma la società dovrebbe difenderle queste donne. E innanzitutto facendo una legge. Ma devono fare dei racconti che siano anche credibili, no? Come quelli di Asia Argenta, che dimora coi cani. Dai, adesso non mi. Cristo, mica scemo. E si accende la sigaretta, aspetta. Una che rimona con i cani, poi si disturba perché uno gli lecca la figa. Dai! Su! Per fatto che io non gliela leccherei mai. Mai! Una che rimona con i cani. Ma è una cosa terribile proprio! Non avevo, ti giuro, mi era sfuggito, si vede che ero in viaggio, una cosa terribile! Non leccherei mai la figa una che limona con i cani, mai! Vai, ma dai, ma è una cosa, posso dirti che è agghiacciante. Ma perché è agghiacciante? Perché agghiacciante? Perché e non agghiacciante? Giustificare non è nel politicamente certo. Non è nel politicamente corretto. Ma non è solo una battuta, ma che c'entra? Ma è un modo, ma ti rendi conto che è un modo Fermo. Vergognoso di svilire tutte quelle donne che hanno subito delle violenze simili. Parenzo, non si entra nell'angolo rotture della zanzara. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Buonasera a voi da Diego Fusaro. Ragazzi, io vi sento estremamente raramente, diciamo, in diretta. 23 minuti di interruzione? Dai. Comunque, ragazzi, io lo ascolto sempre. Per me la Zanzara è la trasmissione più bella che c'è in Italia, la trasmissione radiofonica più bella proprio, però è rovinata da sta pubblicità. Ma quanta pubblicità fa? Dai. Una volta è borsa, una volta... RGR una volta, cioè alla fine strigni sarà tre quarti d'ora di trasmissione, ma vabbè. Comunque Davide, tu avevi sottovalutato questo referendum che, un che c'è stato, un caro saluto da New York da David Parenzo. Ho capito, tu avevi sottovalutato l'effetto di questo referendum, sì. L'avevi sottovalutato. Sì, un io. Po' l'avevo sottovalutato, è vero, però ho anche dichiarato a Radio Padania qualche settimana fa che se fossi cittadino veneto, cosa che non sono più perché purtroppo sono cittadino romano, avrei votato sì a questo referendum fatto secondo le regole della democrazia. Cioè, tu dici, sei contento del successo di Zaia in Veneto? Questo stai dicendo? No, non me ne frega niente, a me, ma niente. No, avrei votato sì, perché non trovo che sia una cosa sbagliata trattenere una parte delle risorse da dove vengono prodotte. Beh, incredibile, Parenzo sulle posizioni della Lega, in pratica. Parenzo sulle posizioni della Lega. Mi sembra che anche il dottor Gori, sindaco di Bergamo, ha appoggiato il referendum. Che cosa? L'ambasciatore, non ho capito. Gori, sindaco di Bergamo. Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha appoggiato il referendum di Maroni in Lombardia. Io, molto più modestamente, se fossi stato residente in Veneto, avrei votato sicuramente sì al referendum, ma senza fare sempre grandi sul carro, sempre sul carro, sempre sul carro. Ma l'ho dichiarato, l'hai dichiarato prima, l'hai dichiarato prima, sì, l'hai dichiarato prima. Sospetti a quella cosiddetta Radio Padania. Sì, ne hanno fatto poi uno spot addirittura, ne hanno fatto uno spot. Allora, ecco, questo li querelo per questo, perché non possono utilizzare in modo indebito la mia voce senza pagare, naturalmente. Naturalmente. Allora, ragazzi, Mara Venier racconta di quando Jerry Calà, numero uno assoluto, addirittura nella prima occasione dopo il matrimonio, prima festa con gli amici, eccetera, eccetera, credo a Castiglioncello, in Toscana, da quelle parti, viene beccato in bagno mentre si fotteva un'altra. Un gran puttaniere. Mamma mia. Jerry è il mio più caro amico. Lui me ne faceva di tutti i colori, Silvia. Andava anche con un sacco di donne, ma insomma, era un gran puttaniere. Oh, diciamo, mamma, non si può dire, eh? Facciamo questa grandissima festa per il matrimonio di Jerry e Mara. Vengono tutti i nostri amici, da Diego Batantuono, insomma tutto il gruppo nostro, e io alle 2 di notte non lo vedo. Dov'è? Tutti quanti in festa, Renato Zero che canta, dov'è? Ma Jerry dov'è? Io dico no, questa volta no. Prendo, vado giù nei bagni e lo prendo, lo trovo con una. Non ci credo. Sì, gli ho dato tante di quelle mazzate a lui e a lei. Ma secondo me lui smentirà questa cosa qua, smentirà questa cosa qua. Comunque, ma fosse vera, credo, fosse vera, questa è la dimostrazione di quello che diceva l'altro giorno, non mi ricordo chi qua, la Zanzara, anzi sì, la signora Marina Ripa di Meana, che ha affermato una cosa sacrosanta: il tradimento del corpo non è un vero e proprio tradimento, caro David. Il tradimento con il corpo, non è un tradimento, non è un tradimento, è un ginnastica, è ginnastica. E invece il vero tradimento è quello con la mente, è quello con la mente. Dunque, se la tua donna ti tradisce, ti dice ti ho tradito, però torno da te, dovresti essere contento, perché evidentemente non è così forte l'attrazione fisica per quella persona con cui è stata. Ci è stata perché semplicemente dopo un po' di anni tu gli hai rotto il cazzo, caro David, no? Cioè, questa è la realtà. Se la tua donna ti tradisce, è perché tu lo hai annoiato dal punto di vista sessuale, ed è normale. Se torna da te e ti dice guarda, è certo, torna da te e ti dice guarda, io ho fatto questo, questo e quest'altro, però sì, nella testa ho sempre te, c'è il legame forte, ce l'ho con te. Questa è la realtà. Solo sì, che ho avuto la voglia di essere montata da un altro. Che cosa devi dire a questa qua? Ma è una cosa agghiacciante. Ma cosa terribile, agghiacciante. Terribile. Ma non è anche l'immagine stessa. Senti, se a te piace l'immagine della tua fidanzata, come dire, governata da altre persone, governata, tu, è bello, sei libero, governata è bello. Io dico uso termine governata da altre persone. Sono molto felice per te. A casa mia io funziona no. In un altro modo. Posso? Funziona in un altro modo. Bravo. Allora, a proposito di stupri e quant'altro, Michela Murgia, come sapete, è una scrittrice da poco anche, ecco, conduttrice. Mi scrive ad esempio una amica carissima. Purtroppo su questo sono d'accordo con Cruciani sui tradimenti. Parlo di una donna, di una ragazza, anzi, molto simpatica, attrice e quant'altro, che non condivide mai nulla di quello che tu dici, mai. Questa volta però mi scrive, certo, te credo, sono avrà d'accordo messo, con avrà messo corna a mille al suo fidanzato o compagno. Ma cioè, come ti permetti? Murgia, so, Murgia, se uno discute su uno stupro si schiera. Buonasera da New York, da David Parenzo. No, dovresti dire Nuova York in realtà. Murgia. Nuova York, sì. Legittimare anche solo l'idea che si possa discutere della verità di una confessione di stupro o di violenza subita è un atto di schieramento a favore dello stupratore e del molestatore. Quando la vittima parla, la vittima va ascoltata. Amica mia, però non è che non si può discutere, cioè non è che ci vuoi castrare la discussione. Se uno confessa, stare a discutere questa cosa qua è come stare dalla parte dello stupratore. Ma dico, ma è impazzita? Cioè, si può discutere dell'oggetto di cui si parla, oppure ci è impedito dal fatto che uno dopo 20 anni si risveglia e dice di essere stata stuprata? Dai, Francesco, Reggio Calabria, vai. Vai. La storia dell'argento mi fa pensare un po' a lei, Cruciani. In che senso, scusa? A lei che è costretto a prostituirsi, a subire gente come Parenzo. Io non subisco assolutamente gente come Parenzo. Questo lo pensi tu, caro Francesco. È certo. E perché dovrei... Non ho capito che c'entra con l'Asia Argento, non ho capito. Se mi fa, se mi fa dire, dimmi. C'è Parenzo che mi pare di capire che lui sia proprio il simbolo del per bene. Allora? Quando lei parla di... Tempo fa io le dissi, Parenzo, di spiegarmi come mai durante il rito della circoncisione un vecchio ebreo fa una fellazio a un bambino. No, vabbè, adesso ragazzi. E lei mi disse che questa cosa era una falsità, mi disse che ero pazzo. Parenzo. Poi dopo l'intervista con Giulietto Chiesa abbiamo capito chi... No? Francesco, cosa hai da dire oggi? Chi è il pazzo tra i due? Cosa hai da dire oggi? Io sto dicendo, lei ha iniziato a parlare di Soros, poi ha detto parliamo di cose serie, è andato al calcio, Cruciani. Volevo dire che io l'ho sempre giustificato, ho sempre pensato a lei come una vittima di questi sauromati che ridono. I sauromati. Di questo. Però oggi mi rendo conto. I sauromati. Aspetta, riprendiamo dopo con i sauromati. I sauromati chi sono? Fermi tutti. Mangia, mangiare un mulluni. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Senti la zanzara dopo Focus, senti che botta. Sentirai Cruciani e poi David come lotta. La zanzara ha il merito di dare voce a tutti. Sullo stesso piano stanno leggerutti. Ti accorgerai poi di una verità palese. Stesso peso Sabaeta e Donato da Varese. Sentirai la sigla di Carisio come un carion. Trovi vegannati omosessuali come Macron. Poi vorrà partecipare con i tuoi commenti. Allora digli niente, metti viva voce, fagli i complimenti. Naturalmente. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo e l'imprenditore bresciano con il busto va bene, e quello col calendario a casa sua non va bene. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Parenzo, quando dici le parolacce mi ecciti. C'ho due chiappe, amore mio. Devi dire a me una cosa, tu muslim, sì o no? Sì, muslim io. Tu muslim? Sì. Ma tu devi dirmi una cosa, mi devi ripetere una roba che piace al mio amico Giuseppe. Sai dirlo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma una preghiera che tu dici, qual è ad esempio? Allahu Akbar. Poi oltre Allahu Akbar? Allahu Akbar. E poi altre cose che dici? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dovete morire tutti all'inferno! Bastardi! Stronzi! Merdosi! Ciao! Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao! Guarda, io ti denuncio, Allora ragazzi, oggi con David Parenzo in collegamento da Nuova York. Devi dire sempre Nuova York in onore di Fusaro, caro David. Saluto da Nuova York, da David Parenzo. Buonasera cari amici radioascoltatori. Qui ora sono le 13:21. Ho appena fatto un piccolo brunch, come dicono qui. E tutto mi pare... Ma come si permette questo? Ragazzi, io sono un po' incazzato con l'ex comico. Ma raccontiamo un po' di grandi storie, aspetta, di imprese, aspetta, di aziende italiane che ad esempio... No. Perché mi devi interrompere sempre quando inizio a caricarmi, quando inizio una botta di adrenalina? Mi voglio un po' incazzare, per adesso solo un po', con il signore là, l'ex comico di Zelig, quello che si chiama Dalla Noce, la caduta in disgrazia, la depressione, dice che vive dentro una macchina, mi dicono che non sia vero assolutamente, ma al di là di questo... Cioè, ci sono venuti a raccontare, ci hanno fatto anche esporre, ci ha fatti anche esporre, in particolare il sottoscritto, sì, che ha detto basta matrimoni, vedete come si può finire con il matrimonio, eccetera, eccetera. In realtà pare che non sia finito in disgrazia per colpa del matrimonio o per colpa di una moglie arpia che gli ha tolto le risorse, i soldi, i pignoramenti, la partita IVA, eccetera, eccetera. Dice, ovviamente bisognerà valutare, l'avvocato della moglie che dal 2013 non passa più un euro, dunque 4 anni fa, alla moglie. E in più ha sperperato tutto con altre donne o per i cazzi suoi. Per cui se hai sperperato tutto con altre cose e tua moglie non c'entra un cazzo, non ci venire a raccontare un'altra storia, perché sennò noi ci esponiamo, i padri separati, le mogli arpie, le mogli violente, le mogli che non danno tregua, le mogli che mandano le persone a mangiare alla Caritas perché vogliono togliere tutti i soldi ai padri separati. No, amico mio, però non ci venire a raccontare cazzate. Se hai sperperato i tuoi soldi per i cazzi tuoi, va benissimo. Non ci venire a rompere i coglioni. Lo dico con tutto il rispetto per la tua situazione. Però non ci fare esporre, anche il sottoscritto si è esposto adesso di fronte a quell'avvocato là, di fronte alla versione dell'ex moglie, che cazzo dico io, dai! Ladri! Ma che c'entra adesso? Ladri! Ma perché? Ma appunto, no, quello però c'entra sempre, perché comunque tu a prescindere lo puoi mandare su qualunque argomento, no? Su qualunque argomento. Ladri! Allora, eravamo con Francesco da Reggio Calabria. Allora, Francesco, cosa mi vuoi dire? Non ho capito. Chi erano quelli di cui parlavi tu prima? Francesco, dimmi. Chi? Di chi parli? No, non ho capito. Prima parlavi di un gruppo di persone. Chi erano? Io parlavo dei sauromati. Ma chi sono sti sauromati? Ma chi sono? Ma cosa dice? Ma perché? Vuoi che te lo dico? Dimmi, chi sono i sauromati? Allora, i sauromati sono quelli che prosperano sull'industria del martirio ebraico, ma non sono mai vittime del martirio ebraico. Ma chi I sauromati... Ma chi è I questo? Sauromati, i sauromati sono quelli che criticano la pornografia, ma sono i fautori della pornografia. Per esempio, il fatto che un rabbino faccia una fellazio a un bambino durante il rito della circoncisione, secondo te? Ma chi, quale fellazio? Ma non lo so. Ma di come si permette un rito sacro? Ma di che cosa parla, imbecille? No, non offendi, io non lo offendo. I sauromachi sono... Ma dice delle cose terribili, i sauromachi. Ma perché ha cambiato la cura? Perché ha cambiato la terapia? Lei non deve cambiarla da solo, deve consultarsi con dei medici. Non è che improvvisamente lei interrompe il suo farmaco e infatti si vedono gli effetti. Si consulti con dei medici, forza. Sai una cosa? Tutti quanti sono liberi di andare a cercare questa cosa che sto dicendo. Lei sta parlando a persone italiane, persone intelligenti, che la stanno ascoltando. Quindi se io sto dicendo delle cavolate, lei, però, e pago, io le do il mio, io mi chiamo Francesco Citro, le do il nome e cognome. Sì, ma perché? Non voglio sapere niente, ma lo dia al suo medico curante, il suo nome. Ma dove vuoi arrivare? Francesco, dove vuoi arrivare? Questo ecco, è il punto. Però veloce, però, amico mio, dai. No, non è veloce, perché se lui mi parla sopra non mi fa parlare. Allora io le chiudo il telefono e le dico, andate a vedere se il rito della circoncisione prevede questa pratica, che è già l'inizio della pornografia, della pedofilia e di tutto il marcio. Ma come si permette? Ma è da querelare questo qui? Ma come si permette? Ma eccola là, ma lei sta scherzando. Potere dei sauromati. Il potere che lei è un coglione, non dei sauromati, non c'entra niente. No, io non lo sto offendendo. Lei va da Soros, lei è amico di Soros. Non è amico di Soros. Lei è dei poteri. Lei è l'uomo, in questa fase storica, lei è l'uomo più potente, con i potenti. Ma a me non me ne frega un cazzo. Ma che c'entra di sauromati? Io le sto dicendo una cosa vera. Cioè cosa? Il rito della circoncisione prevede la cosiddetta mezzizzabe al pe, come mi dice. Allora, mi scrive, ma non capisce niente. Mi sta scrivendo in questo momento Benedetto Sacerdote, che è un mio amico. Mi ha scritto che la cosiddetta mezzizza bealpe non è più praticata. Ci sono solo piccolissimi gruppi estremisti, ma pochissimi. Allora, Francesco, che la pratico. Nulla a che vedere con la circoncisione. Si vergogni e vada a quel paese. Intanto mi fa piacere che subito le abbiano. Vabbè, ma non ho capito, Francesco. Ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Allora, io voglio dire che già. Già, nel mondo del cinema, e noi ci domandiamo... No, però, veloce, amico mio, cosa vuoi dire con questa cosa qua? Non può essere veloce, è stupido! Guardi, veloce è un cazzo, io la saluto, arrivederci. Ma questo è l'ideale di Sauromati. Vincenzo da Palermo, dai, Vincenzo. Ma che comunque gente criminale chiama. Dai, dai. Pronto? Dai, dimmi. Pronto, no, volevo parlare di Vittorio Feltri, di quello che ha detto ieri alle Iene. Allora? Secondo me sono stronzate. No, ha detto delle cose sacrosante. Sacrosante. Questo non è sacrosante, detto. Sacrosante. Non è detto, perché a volte. Dimmi perché no, allora. Dimmi perché no, tranquillamente, siamo qui. Perché a volte non si denuncia per paura, e questa è una cosa che deve essere tenuta in considerazione. Sì, ma non vent'anni dopo, amico mio, dai, su. No, per paura, certo. Dopo, e io ti ma chi non denuncia per paura sono quelle schiavizzate, sono quelle che hanno un orco dietro, sono io quelle magari l'esempio. Che hanno un orco dentro casa. Non è un'attrice affermata a New York nel mondo delle paillette, amico mio. Quella è convenienza, secondo me. Ma non è che voglio dire che è una troia, perché io la parola troia non l'ho mai pronunciata, non lo posso sapere. Va bene, ci ma possiamo giudicare. O no, oppure c'è impedito di giudicare, come dice la Murgia. No, possiamo giudicare, possiamo parlare, possiamo esprimere un'opinione, o no? Certo che si può giudicare, assolutamente. Ma nella Bibbia c'è scritto Bibbia. Anche che cazzo non c'entra la giudicare. Bibbia? Ma che tutti che citano la Bibbia? Tutti ma a citare la Bibbia? Che c'entra la Bibbia? Bibbia per dire che cosa? No, ma questa è dalla parte tua, che... questo Vincenzo. Ma che cosa? Aspetta, fammi parlare. Dimmi. Sì, ma non mi interessa, ma cita la Bibbia, non c'entra niente. Che sta esponendo una sua opinione in maniera abbastanza tranquilla, senza aggredire nessuno, cosa che invece fai tu sempre. Io non aggredisco nessuno, e ti sto facendo esporre tranquillamente il tuo pensiero. Tu dici che le persone possono denunciare, non possono denunciare per paura. Non è il caso in questione. Non possono non denunciare per ma paura. Ma non è il caso in questione, non c'entra niente la paura. Ma perché non c'entra nulla la paura, amico mio? Non c'entra niente, l'ha detto lei, l'ho fatto per proteggere la mia carriera, l'ha detto più volte. Dai, non torniamo sulle stesse cose. Ma poi Asi Argento forse certo, l'ha detto, non altre persone sicuramente possono... Alcune persone possono avere paura, mi sto occupando. Io mi sto riferendo proprio a questo. E vabbè, pazienza. Il Giulio dalla provincia di Carbonia. Ciao Vincenzo. Giulio. Su questo ha ragione. Vai Giulio. C'entra la Bibbia. Dimmi. Pronto, ciao, ciao, ciao. Senti un attimo, riprendo quello che ha detto Parenzo prima della curva della Lazio da chiusa. Sì, tu sei tifoso della Lazio? Sì, io sono un tifoso della Lazio. Frequentatore della curva? Sono stato frequentatore per 20 anni della curva. Sì, poi sì. Adesso vivo in Sardegna, però. Sì, per altri motivi. Lavorativi, d'amore, sì, sì, ok. No, io ho sentito soltanto il fatto che lui vuole chiudere la curva per un anno intero. Sì, certo. Sì, sì. Okay. Io penso certo, che ormai certo. La curva della Lazio è additata ogni qualvolta fa un coro, anche che non ci sono bu, ma credo. Che comunque nel riverbero dello stadio esce un bu, ci sono i commissari no, della non stiamo FIFA. Parlando o fai il bu no, o no, non no. Fai il bu, però cioè, due no, sono le cose, allora, o lo fai o non lo fai. Bu è una cosa, in curva per prendere in giro le persone di colore si fa u. Okay. Sì, sì, però sì. Se tu al seguito del bu vabbè, ma che vuoi rimane... dire con questo però Giulio adesso spiega tu secondo okay. Te c'è una criminalizzazione da parte assolutamente sì vengono ormai ho capito, ma perché hanno messo perché hanno messo quegli adesivi Anna Franca romanisti ebrei perché lo hanno messo che è una cosa controproducente è una puttanata cioè controproducente è puro razzismo ma sì ma adesso razzismo bisognerà vedere se è razzismo o no non ho sentito qual era no che cos'è no, il nocciolo della questione è sentito tanto di chiudere la curva per un anno. No, ho capito, però se non sai la notizia, amico mio, prima informate però. Aspetta un attimo, fermo là un attimo, Giulio, fermo. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Voglio la roba a casa di Parenzo! Parenzo lo tenete lì apposta per istigare la gente. Il processino che chiama lui sono migliaia e migliaia di soldi. Migliaia e migliaia di soldi. E ti possono rovinare. Premio banalità, se ci fosse un premio banalità dovrebbero chiamarlo premio David Parenzo. Avare, tu sei come i politici che stanno a Roma. Ti indigni tanto per le parolacce, per quello, per quell'altro. Però il culo dalla poltrona non lo muovi e non ti stacchi. Avare, ma chi vuoi prendere in giro? Luvolu Muluni. Allora ragazzi, non so se voi l'avete ricevuto nei giorni scorsi, caro David, quel video. Io l'ho visto solo adesso, sinceramente, sì. Non ero così curioso di andarlo a spulciare. Me l'hanno mandato e alla fine l'ho visto con una certa morbosità, devo dire la verità. E sai quel video di quella mamma che purtroppo ha mandato male via WhatsApp un video in cui si masturbava, quella mamma, genitore, donna, credo di Viareggio. Mi è sfuggito, ti chiedo scusa. Sì, sì, lo so che ti è sfuggito, che ti occupi di altre chiedo cose scusa. Più importanti, no, lo so. No, assolutamente. Però c'è stato questo caso abbastanza, come dire, no? Di una decina di giorni fa. È incredibile. Io invece ho avuto l'occasione di vedere questo video in maniera anche un po' curiosa, morbosa, nella giornata di oggi, quando mi è stato recapitato. Sì. Guarda questo video qua, e c'è una signora... devo dire, non si può nascondere una cosa. Quando tu, quando ti dicono una cosa di questo tipo, il primo istinto dovrebbe essere quello di che cosa? Di dire no, non mi interessa, tu forse non lo guarderesti, no? O sì. Se ti dicessero guarda, no, qui c'è il video di una signora che per sbaglio ha mandato c'è un video in cui si masturba, sì, in una chat, notizia vecchia di giorni fa, ho visto la cosa ma non mi viene neanche da guardarlo, non ti viene da guardarlo. Non mi interessa, no, non mi interessa. Ma non c'è la mandato questo video della chat della scuola, appunto, dei figli. Io mi sono sentito male per lei, e ho immaginato subito i commentini delle madri dei suoi bambini, dei suoi compagni di classe. Però ma non ti è capitato in questi giorni, da quando è uscita la notizia, non ti è capitato di vederlo questo video e non hai avuto nemmeno la curiosità? Ma devo dire la verità, nessuna. Te lo mandano e ti dicono ecco il video, che fai? Non lo apri? La prima domanda da farsi è come mai a te arrivano sempre tutti questi video? Questa è la prima domanda, quello di che base, c'è un altro discorso. Nessuno me lo ha recapitato, quindi abbiamo amicizie diverse, evidentemente. Può darsi. Però no, non mi verrebbe assolutamente da guardarlo. Anzi, hai contribuito, secondo me, guardandolo, non è certo colpa tua, ad alimentare il dolore di questa donna. Ad alimentare il dolore. Sì. Ma non c'entra niente. Anzi, al contrario. Ma voglio... si vede la faccia? Assolutamente sì, si vede il volto e tutto. Si vede il volto e tutto quanto. Insomma, adesso magari per molte persone che ci... È una cosa terribile. D'accordo, ma è terribile il fatto che sia stata crocifissa questa signora. Cioè il marito probabilmente era per il marito, non lo so, ma sì, viene attaccata. Speriamo almeno fosse per il marito, ecco, questo ti voglio dire. Speriamo. Quello adesso sono cazzi suoi. Comunque, ti voglio leggere una cosa che ho letto, scritta dal mio amico Pupo, credo oggi su qualche giornale, su Quotidiano signor Nazionale. Pupo, signor Pupo, sì, cantante Pupo. In fondo, cosa ha fatto di male questa signora? Ma guarda che sarai d'accordo con lui, In fondo, cosa ha fatto di male questa signora? Ha fatto una cosa che quasi tutti noi, uomini e donne, abbiamo sempre fatto e continueremo a fare. Ha praticato l'autoerotismo, l'atto di amore più alto e sincero che un essere umano può rivolgere a se stesso. Bellissima questa frase. Ha praticato l'autoerotismo, l'atto di amore più alto e sincero che un essere umano può rivolgere a se stesso. E lei poi, come fanno alcune femmine innamorate, desiderava condividerlo con il suo maschio. Un gesto antico e moderno allo stesso tempo, perché, non so se ve ne siete accorti, è così che in futuro molti dei nostri giovani faranno l'amore, o meglio faranno sesso, chiusi nella solitudine delle loro stanze digitali, circondati da oggetti infernali che simuleranno la realtà e li solleveranno da qualsiasi responsabilità o ansia da prestazione. Perciò ripeto, niente di così scandaloso, è tutto normale. Io cose del genere le facevo già 30 anni fa con le cine prese Super 8. Adesso quest'ultima cosa è abbastanza curiosa. Cioè, ecco, signor Pupo, magari ce lo racconterà nei prossimi giorni, con una cine presa Super 8. Ci mancherebbe. Con una cine presa Super 8 si riprendeva mentre si masturbava, o riprendeva qualcuno. Non lo so, ma nessun problema, è tutto normale, dice lui, è tutto normale. No, ma uno può fare a casa propria. Non hai mai mandato un video a qualcuno, tu uomo irreprensibile, mai. Vabbè. No, ma non è irreprensibile. Voglio tenere quella intimità, quelle porcherie che magari anch'io faccio a casa mia, ma le voglio mantenere dentro casa mia. Non è che mi metto a mandare ma la cosa curiosa è mandarla ad altre persone, non dentro casa tua. A casa tua che cazzo te ne frega, non mandi niente. Ma perché avete questa curiosità di condividere? Ma perché dovete mandare mentre governi tua moglie o la tua fidanzata? Questo è un termine che ormai è entrato, ho già visto, no? E già diventa governi la tua moglie, la tua fidanzata. Perché devi condividerlo con altri? Che bisogno hai? Se lei è contenta mentre la stai governando, non è che devi mandare in giro il tuo video e le tue prestazioni per farti dire da altri che sei bravo a governare tua moglie. No, ma c'è anche l'autoerotismo, c'è anche l'autoerotismo, cioè ti voglio segnalare. Cioè, tu non hai mai mandato una foto del tuo pisello a qualcuna in giro? No, ma è una domanda. No. Vabbè, certifichiamo questa cosa. Certifichiamo questa cosa. Non ho mai mandato in giro. Ma tu invece mandi in giro? No, ho detto sì, l'ho mandato. Ho detto mando in giro, no, l'ho mandato. Laura da Roma. È successo. Succede. Dai un biglietto da visita. Quello non è il tuo unico biglietto da visita. Dai un biglietto da visita. Scrivi Giuseppe Cruciani, gruppo Sole 24 Ore. Ma dai il tuo biglietto da visita. Ma quello a Giulio. C'è sempre Giulio, quello che ha frequentato la curva della Lazio. Vai. Allora, io Giulio. Scordato, Marco. No, non mi sono scordato. Io voglio capire, hai capito di che stiamo parlando? Sì, l'ho letta la notizia. La foto di Anna Franco con la maglia della Roma. La scritta. Condanniamo pienamente queste persone, assolutamente, tutta la vita. Perché... No, ma è anche una cosa. Oltre che, secondo Parenzo, è una cosa razzista, antisemita. Può darsi, naturalmente. L'intento è quello. Secondo Parenzo, sicuramente di cattivo gusto per tutto ciò che ha passato e ha dovuto passare Anna Franco. Poi ovviamente è un simbolo ebraico che rappresenta, ma non è un simbolo, semplicemente un simbolo, è una bambina che ha subito la barbarie nazista. In quel caso viene utilizzata in modo denigratorio per dire romanisti, sì, romanisti farete la fine di Anna Frank. Detto i laziali sta cosa. Okay, sì, ho capito, ma non è che esatto, va chiusa, va presa, è rude, una cosa barbara, ok? La condanniamo, io non avrei manco chiamato se sapevo che si parlava di quel tipo di e perché non l'avresti condannato? Perché non avresti chiamato? Perché ti vergogni? Non ho capito. No, perché comunque non è una cosa neanche da commentare, secondo me. Sprecare tempo commentare una cosa del genere, perché comunque si parla e si dà rilievo a persone stupide e che comunque non c'entrano nulla con il tifo. Ma tu capisci la stupidaggine in questo momento di utilizzare queste cose qua, no? Mentre tutta l'attenzione è su una squadra di calcio, in questo caso, e sul gioco, sul campo, eccetera, tu vai a fare questa puttanata, questo è il punto fondamentale. Oltretutto che già c'è la curva bloccata per due giorni. Però Parenzo dice, Parenzo che non gliene frega nulla delle quella. Nulla, quella cosa lì fa parte di una parte del sistema del calcio, scusate il gioco di parole, cioè per i tifosi, per gli ultras, gli insulti fanno parte del loro modo di vivere il tifo. Bene, continuassero a insultare con tutti gli aggettivi che vogliono, ma sull'antisemitismo non si può scherzare, ma non perché me la prendo io, perché c'è una legge che tutela questa cosa, quindi va chiusa la curva, va fatto un daspo per il razzismo. Il razzismo non può entrare negli stadi. Va bene, ciao Giulio, Laura, Roma, vai. Laura da Roma, vai. Dimmi. Pronto? Dimmi, Laura, dimmi. Ecco, no, volevo dire, se c'è il margine per questo pensiero, dimmi. Volevo esprimere solidarietà nei confronti delle attrici o aspiranti attrici che, non avendo ceduto ad avanzo di alcun tipo, non hanno né fatto film né adesso si parla di loro. Bravo. Quindi vorrei dedicare un pensierino a loro. Brava, è quello che dico io da una settimana. Dovrebbero fare un sindacato per denunciare denunciare nulla nessuno. Nulla a che vedere con la vicenda di Asia Argento. Oh, ha a che fare molto. Esatto. No. Come no? Nulla. No, allo stesso tempo, avendo avuto un'esperienza, fortunatamente non finisco male, ma... Che esperienza hai avuto? Hai fatto del cinema? Hai fatto spettacolo? No, non rispetto a questo, rispetto a una... Dunque, io a 15 anni, in una delle mie primissime uscite con un ragazzo, uscivo appunto invitata a mangiare una pizza, e a un certo punto la macchina vedevo che si indirizzava verso fuori città. Allora? E quindi sono stata portata in una casa... E fortunatamente adesso non è che voglio entrare nei dettagli, però a un certo punto questa cosa si è interrotta prima ancora di essere consumata. Ma la cosa importante, sei stata portata in una casa dove c'erano altre persone? No, non c'era nessuno. Cioè, c'era che voleva fare? Ti voleva scopare questo qua? Cioè, voleva stare con te? Suppongo, io tra l'altro non avevo esperienze sessuali. E come hai fatto a divincolarti? No, non mi sono divincolata. Volevo raccontare questo. Cioè, io per esempio amo molto Feltri, la sua schiettezza, e lo condivido molto anche per questo. Però è veramente, veramente difficile spiegare la dinamica che accade quando una donna, in questo caso, trova totalmente neutralizzata la sua autodeterminazione, cioè azzerata. Non so, è difficile capire cosa significhi entrare in una condizione di panico dove la razionalità, anche quella di dire no, non è più non si può più attingere. Sì, però ragazzi, entriamo in una dinamica che è quella della psicologia. Adesso, eccetera esatto. Ma lo capisco, magari non è questo caso, però ma non lo so, ma ci possono essere tanti casi sicuramente di dominazione psicologica rispetto a una donna, va benissimo, ma ripeto, stiamo alla realtà. Se non vai da un produttore perché quello là ti vuole scopare, vai da un altro, devi avere la forza di dire. Se non ce l'hai questa forza, non è che ci possiamo accollare noi questa responsabilità, non è che poi incolpare gli italiani di giudicare questa roba qui in maniera diversa da come la giudichi tu. Vado via dall'Italia, l'Italia non mi capisce, semplicemente perché ci sono delle persone che non si accomunano, non seguono il gregge ed esprimono semplicemente le loro opinioni, che sono diverse dalle tue, perché si possono giudicare i fatti, e i fatti ci sono, non è semplicemente il film, come dice Parenzo, la cronologia, ripercorrere le tappe, così. No, è basarsi su quello che lei stessa ha detto. Fermi tutti, fermi. Senti, però il maschio 100% su questa vicenda qua lo dobbiamo sentire, Parenzo. Tu dici di no, di non sentirlo. Che cosa ha da dire di importante? Salvatore Marino, maschio 100%. Perché lui sostiene il fatto che siamo praticamente testimoni di un maschicidio. Cioè siamo testimoni di una lobby delle donne che vuole distruggere il maschio, no? Su questa vicenda ancora qua circola quello. Sì, Marco 100% è uno dei collaboratori principali, già intervistato da noi da qualche tempo fa, generale Pappalardo. Io lo chiamerei, però su questa cosa mi sembra un contributo che può essere prezioso, diciamo, prezioso. È fondamentale, ma fondamentale. Pronto? Sì, Salvatore? Sì, salve. Sono Cruciani, come andiamo? Oh, Cruciani, carissimo. Amico mio, come? Fratello! Senti, amico mio, io voglio capire una cosa, ma... Dimmi, Cruciani. Amico tuo. Il caso... Amico tuo, niente. No, amico mio, no, sì, ci conosciamo, per carità. Ma amici, ma noi dobbiamo mangiare adesso... gli arrosticini insieme. No, amico mio. Adesso, per carità, va bene tutto, io non è che sono snob, però non è che ci siamo amici, non esageriamo adesso. Ecco. Senti, Marino, io non ho capito una cosa, ma tu del caso Weinstein, alla fine, che pensi? Sì, io penso che è una balla che si sono inventate le femministe. È una balla, un complotto inventato dalle femminaziste mondiali politico per criminalizzare sempre di più i maschi e per dare ancora più peso alle false denunce che le femmine già fanno in un quantitativo esagerato. Perché il 90% delle denunce sono false. Figuriamoci nel caso di Asia Argento, che poi è stata 5 anni con presunto stupratore. È ridicola. Lei nega di essere stata 5 anni con quello là, comunque. Perché io non ci andrei mai, perché diciamo. Ma con lei non vanno neanche le muffe, che signor maschio cosiddetto. Ma neppure le muffe. Come grande si permette Valenzo di dire una cosa? Ma grande un po', non dica grande, perché altrimenti mi distrugge. Non ti attacca. No, capito? Se lei mi dice grande, io l'acquerello, perché mi sputtana la mia reputazione. Cioè, il maschio 100% che dice grande Parenzo. Ma mi come? Ma non hai detto che abbiamo mangiato sempre insieme io e te, mai, a cena, mai, alle riunioni. Ma per carità, mai. Però scusami, ma Pescara è il tuo amico, cioè David mica mi chiama, sono già io. Vabbè, aspettavo la telefonata per andare a cena. E non ma ti preoccupare, adesso provvederò io a questo grande incontro. Quindi le femminaziste appoggiate da Hillary Clinton vogliono l'olocausto dei maschi. Vabbè, adesso però questa qua mi sembra vogliono distruggere i maschi con la stronzata che si è inventata. Ha usato la parola olocausto dei maschi, si deve vergognare, qui sono serio. Olocausto dei maschi. Ma come si permette, cretino? Ma che focus economia è? Ma come si permette? No, io... ritiri la parola olocausto dei maschi. Ma come si permette? Ma come genocidio, si permette, buffone? È uguale. Genocidio. No, io voglio capire una cosa. Scusa, facciamo un attimo di... un mondo senza maschi. Ma focus mica la Bibbia. Cioè, non focus è che... ci mancherebbe che fosse della Bibbia, invece, appunto. Non ho capito una cosa, amico mio. Adesso tu pensi che tutte le denunce delle donne, il 90% delle denunce di stupro, di violenza, siano delle balle? Sono balle, 90% delle denunce fanno sono falso per vendetta, non sono vere, quindi tutte quelle, a parte che secondo te ogni tanto le donne ci mettono del loro a farsi stuprare, cioè hanno qualche responsabilità le donne? Istigano comunque odiando e discriminando i maschi. No, istigano alla violenza le donne ogni tanto? Ma con la discriminazione sì, nel senso, istigano, non è che è giustificabile nessuna forma di violenza, perché a me personalmente se una donna mi istiga, mi rompe i coglioni, dico senti, se una rompi i coglioni vattene a casa, istiga, non mi rompere le palle, se una rompi cazzo. Ma lei si immagina come uno a cui... C'è un assalto di donne, nessuno le fa l'assalto, gli unici assalti che le fanno sono le forze dell'ordine. Le donne quando la fanno portano ricatti via. Sessuali, le donne fanno ricatti, estorsioni, se non se nomi dai 1.000 euro, caro marito, io ti butto sotto i ponti, i padri separati ricevono ricatti, il maschicidio è il doppio del femminicidio. Cosa dichiarerà? Cioè il maschicidio è il doppio del femminicidio, che a parte che una legge incostituzionale abusiva fatta da un governo abusivo, e me l'ha confermato anche il mio grande consigliere prima, il generale Pappalardo, che vi saluta e saluta a tutti. Tutti voi, sì, perché dovrebbero essere tutti arrestati i parlamentari. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Io voglio capire una cosa, il maschicidio che dici tu, no? Cioè, secondo te le donne uccidono gli uomini molto più di quanto facciano gli uomini con le donne, giusto? Sì. Secondo te le donne è una massoneria, le donne sono una massoneria. È una politica, il PD è una politica delle donne, partito donnista massonico dittatoriale, PD, partito donnista massonico dittatoriale. E sono praticamente una lobby per distruggere l'uomo. Cioè il maschio, ridurlo a non potersi ribellare più, perché se l'uomo si diventa effeminato non si può più ribellare, non si può più ribellare. Ma perché gli hanno... Ma scusa, le donne anche vestendosi in modo anche così, no, con le minigonne o mostrando le parti del corpo, le donne istigano alla violenza, secondo te? Devo dire che per esempio, appoggio i paesi arabi in cui veramente le donne sono coperte. Cioè, se, come dice anche la Boldrinova, come dice anche la Boldrinova, le donne andrebbero coperte. Cacchio, no, veramente non l'ha mai detto che le donne. Vabbè, comunque diciamo che la Boldrini tutto sommato per certi versi la pensa come me, nel senso gli piace coprire le donne, odia le donne scoperte. Anche io odio le donne e amo le donne coperte. Cioè, tu ami i paesi arabi dove coprono le donne? Sì, perché secondo me comunque, ecco, c'è scritto nella Bibbia, è un'istigazione comunque a fare peccato. Cioè, un'istigazione a commettere un reato la donna scoperta, non è, diciamo. Non è normale questo qui. Cioè, al di là del reato. No, ma scusa, secondo te, non ho capito. Ha un pensiero cattivo, non biblico. Cioè, non le donne, secondo te, possono, cioè, che cos'è che non dovrebbero fare e che fanno? Che ne so? Solo le mogli si possono spogliare davanti ai mariti, solo le mogli. Solo chiuse, le mogli. Chiuse dentro le case. Chiuse dentro le case, naturalmente. E cos'è che non possono, per esempio, è giusto che votano le donne, secondo te? Beh, questa è una bella domanda, per me no, è sbagliato. No, è sbagliato, bella sbagliato perché è sbagliato. Infatti, da quando le donne votano, la politica è uno schifo, è un bombo. Le donne non dovrebbero votare. E non dovrebbero neanche guidare la macchina. Questo sagace intellettuale, come in Arabia Saudita praticamente. Esatto, sì. Esatto, il maschio 100%. Arabia Saudita, Italia dovrebbe diventare come Arabia Saudita. Sì. Vabbè, ciao Maschio. Ma questo sagace intellettuale che tu intervista. Grazie. No ragazzi, una pizza insieme, però veramente... Cioè, ma veramente... la pizza con Parenzo, no? Una pizza con Parenzo a Pescara. Ma con te, ciao Maschio, ciao Maschio. Ciao Maschio. Ciao carissimo, ciao, ciao amico. Ma carissimo, ciao, cosa? Grazie. Ciao. Questo era il Maschio 100%. Parenzo, te lo scateno a Pescara prima o poi, eh? Quando torni a Pescara, come te lo scateno? Ma perché? Ma io rimango come qua, te lo scateno? Io fisso qua. Giovanna da Firenze, vai. Giovanna, dimmi. Pronto, finalmente. Dimmi Giovanna. Allora, senti, io volevo intervenire su quella, per non dire stupidaggine, grandissima cazzata che ha detto Feltri riguardo al fatto che siccome Asia faceva i film, le foto con i cani, poi dopo si lamenta, eccetera, eccetera. Ora io vorrei sapere da Feltri, se lui la sera mangia l'ira di Dio, primo, secondo, contorno e frutta, deve per forza mangiare la mattina salticci con i friarielli che gli si presenta alla moglie? Che vuol dire che lei fa i film con i cani o con i cani? Una prostituta non può essere violentata? Un rapinatore non può essere rapinato? Brava, se preferisce fare limonare con i cani piuttosto che con questo porco maiale dal nome impronunciabile, perché io non chi riesco è? A pronunciarlo. Chi è? Chi è il porco maiale? Il produttore. Ah, Weinstein. Va bene? Sì, Weinstein. Non darsi che questo sia lei? Ma fai con i cani, ma non vuole stare con lui. Avrà il diritto di dire lo faccio con chi dico io. Cioè, tu allora, a te Feltri proprio non piace. Bravissima. Bravissima. No, a me guarda, non mi piace neanche Asia, volendo. Non mi piace. Però ti fa schifo quello che ha detto Feltri. Mi fa schifo quello che ha detto. Beh, è una cosa schifosa, perché, brutta, perché veramente antifemminile, ma pazzesco. Cioè, fate tanto quelli che rompete i cose, che siete non politicamente corretti, e poi fate ragionamenti che l'Arca di Noè vi fa un baffo. Ma cioè, chi è? Non noi che cazzo c'entriamo? Scusa, la lettera di Scarlatti. No, ma che c'entriamo noi? Ragioni, ma sì, ma non su tutto, sul 90% delle cose, su questa cosa qua, a me non me ne frega niente se uno bacia un cane o no, non me ne frega nulla. Non è che se una... Io ho detto che sono d'accordo con Feltri quasi al 100% su questa roba qua. Su quella cosa del cane, sinceramente, cioè chi se ne frega se uno bacia il cane, non è quello. Se non è che se uno bacia un cane allora è disponibile anche a farsi violentare, ma io siccome dico che non c'è stata nessuna violenza tu che dici che non c'è stata nessuna violenza perché tu come tutti i maschi pensate che la violenza sia soltanto che quello entra lì, la piglia a schiaffi e finisce qua, perché esatto, forse quando tu mi vieni a dire, lei poteva dire di no, probabilmente certo. Se lui gliel'avesse chiesto avrebbe detto di no, ma non funzionano così le abuse e le molestie. Ma infatti fino adesso sì, a meno abbiamo spiegato, cara signora, fermala, lei ha perfettamente tutti, ragione, dovete io fermarvi guardo, un attimo, ma non fermi, dovete fermare, aspetta Giova, aspetta. La zanzara. Lorenzo, ti sei confermato il solito perbenista, capito? Pure questa vicenda di Dario Argento, di Asia Argento, è il solito perbenista. Se non voleva, se ne andava, usciva fuori e andava via. Sei il solito coglione che deve difendere gli indifendibili. Se l'è fatto buttamberta perché gli andava de fa l'attrice e quindi gli ha data. Punto. Fa finta di incapì. Falso. Ain't she loves me just enough to kill me just questo pensiero, caro Davide, mi piaceva l'espressione buttamberta. Buttaimberta, capito? Sì, per carità. Espressione anche, come dire, cruda. Se gli piaceva fassero buttaimberta. Ma no, una porcheria. Tra l'altro, a dire queste volgarità, peraltro, sono soprattutto gli uomini, ovviamente, no? E quindi ti dà anche l'idea della dominazione maschile dell'uomo sulla donna. La dominazione, e della potenziale. Certo, della potenziale violenza maschile, ma chi sei? Fisica, ma anche proprio psicologica, che gli uomini esercitano sulle donne. Per cui ha ragione quell'ascoltatrice di prima che dice: non esiste soltanto uno stupro, come dire, violento, che ti prende e ti sbatte al muro, ma esiste uno stupro anche psicologico, che è quello di portarti in una grande camera d'albergo 5 stelle se vuoi non e ci poi vai. Di chiederti lì di farti un massaggio. Se vuoi non ci vai. Quella pensava di andare lì magari a fare un colloquio di lavoro, come spesso avviene in questo tipo di ambienti. Sì, beh, certo, Hollywood, colloqui di lavoro. Ciò non toglie che c'è il diritto ad andare anche in una diritto, camera, come ha detto ma la non moglie, c'è il diritto. Certo, il diritto, come ha detto la moglie, di si quella persona di esercitare violenza. No, assolutamente no, ma anche di dare un calcio sui coglioni al pisello di Weinstein c'è il diritto. Sì, vabbè, anche, ma sai che non può essere così. Come non può essere così? Sai che non è così, perché sono comunque persone che uno incontra, vede. E la violenza è anche quella di ambienti che tu conosci e frequenti. Sì. Cioè, questo è un tipo di violenza, perché la violenza che ha subito Asia è una violenza di un ambiente che lei comunque continuava a frequentare, quindi l'impatto psicologico su di lei è ancora più forte rispetto a una violenza da strada terribile che può avvenire per mano di un criminale. E quelle che assassino. Non ci sono state, quelle che non ci sono state. Comunque, senti quello che ha detto questa qua, si chiama Giorgia Ferrero, non la conosco, un'attrice di teatro. Giovanna, torno subito da te. Un'attrice di teatro ieri sera alle Iene, perché poi c'è stato un servizio sulle attrici italiane che hanno detto di avere subito delle cose da parte di produttori. Denuncia zero, ovviamente, denunce penali zero, denunce in tribunale zero, denunce pubbliche zero. Solo adesso viene fuori qualcosa, forse, come, perché questa Giorgia Ferrero dice di avere scambiato dei messaggi con una regista napoletano che voleva la parte in un film. Non è Sorrentino questo qua, l'ho specificato lei. Giorgia Ferrero, senti, gli ha chiesto praticamente le dimensioni del seno. Senti. Da lì ha cominciato a chiedermi le mie misure, quanto sono alta. E a un certo punto ha fatto l'ironia dicendomi seno zero. E gli ho scritto, no, veramente, una seconda, cioè, mi ha detto, non mi fido. Fatti una foto in reggiseno e mandamela. E così Giorgia si fa questa foto e gliela manda. Ma a lui ovviamente non basta. No, questa foto non ti rende giustizia. E mi dice, adesso sei tu che ti devi fidare di me. O mettiti davanti allo specchio, togli il reggiseno, scatta e io ti chiamo. Foto fatta senza reggiseno, cioè, che cosa ti può sembrare un casting questo qua? Non lo fai, no? Non gli mandi la foto delle tette. Cioè, c'è sempre un fare e non fare, accontentare in parte e non accontentare. Poi a un certo punto voleva la foto del culo questo regista e lei la foto del culo non gliela fa. Sì, poi alla fine dice il culo no, come le cinesi. Mi fa un'altra richiesta, adesso mandami il di dietro. E io sinceramente ho detto no, il mio sedere... col cazzo che te lo mando. E ovviamente la foto del mio culo non gliel'ho mai mandata. Cioè, e capisci? Io ero molto confusa. Posso dirlo che ero confusa? Sì. Perché sono richieste che appunto che puoi accettare, però c'era qualcosa, sentivo già qualcosa che, insomma, è un istinto. Che cosa puoi accettare? Le richieste che uno ti fa vedere, ti dice mostrami le tette? Cioè, quello è accettabile, il culo no? No, ma hai capito cosa ti ha detto? Ci sono, ma ragazzi, ma i nomi, vogliamo i nomi, vogliamo i nomi. Non è che uno dice un regista napoletano e poi si scatena la caccia al regista. Perché uno non fa il nome? Ci sono le chat, se lo racconti, poi devi fare anche il nome da un certo punto di vista. Ma no? Non lo so, appunto, magari siccome si lavora in quell'ambiente, certo, ma siccome si lavora in quell'ambiente, magari c'è anche questa, come dire, prudenza, no? Vabbè, Giovanna, allora? No, state parlando voi, stavo cercando di aspettare di poter intervenire. E quindi dicevo, l'abuso, come dici te, perché non gli ha detto di no? Perché non poteva dirle di no. Tu dici... Anche questa ragazza che ha appena detto il fatto delle tette, eccetera, eccetera, non riesce a comprendere che se un regista... Quello non è un abuso, ma quello non è un abuso, quella è un'altra cosa, scusami. Però ti voglio far capire la situazione. Se il regista gli dice vieni da me nella mia suite e ragioniamo del contratto, di quello che ti pare, e tu gli dici vabbè ma lasciamo perdere, se stasera ci vediamo domani, non voglio disturbare, no, domani me ne devo andare, poi non c'ho tempo, vabbè, allora... c'ho tempo solo stasera. Allora lei accetta. Nel momento in cui è soltanto accettato di andare lì, sì, è ben poi inguaiata. Perché? Ma perché te la fai? Perché dopo te la fai, diciamo, leccare? Perché fai? Perché lasciamo perdere il dettaglio. Quando tu arrivi lì e cominci a comprendere, non ci si può ribellare a quel punto? Non ci si può ribellare? No, non ci si può ribellare. Sai perché? Perché lui, per il solo fatto che lei ha accettato di andare là dentro, gli dice: e perché sei venuta? Non te l'aspettavi? È questo quello che pensa la donna o un maschio quando si trova lì? Ma te ne puoi sempre andare se ti fa schifo. Te ne puoi sempre andare, ma il tempo che tu colleghi e ricolleghi, che tu hai modo di potertene andare, te ne vai, te che stai scafato, te che quella situazione ti ci sei già trovata. 21 anni in America, Hollywood, 21 anni in America, Hollywood, figlia di registi, madre. Figlia di registi, cosa non c'entra? Vuol dire nulla, non vuol dire nulla. Ma non ci pigliamo per il culo, dai. Ciao Giovanna, ciao, grazie. Ciao. Pietro da Frosinone, vai Pietro. Pietro? Oh. Pronto? Vai, dimmi Pietro. Buonasera, volevo fare una domanda a Parenzo. Dimmi Pietro. Non so se c'è, adesso vedo. Parenzo? Mr. Parenzo? Vabbè, Pietro, allora. Mr. Parenzo? Eccomi. Niente. No, riguardo la curva, ho sentito il signore che diceva di chiudere la curva nord. Sbaglio è così? Sì, lui diceva di chiudere la curva. Sa quanti spettatori contiene la curva? Quanti ettolitri di vino contiene il suo corpo in questo momento? Quanti, intanto partiamo dai fondamentali. Lei parla di quello che non sa. No, ma lei quanto alcol ha ingerito oggi? Parliamo anche di questo. Il cuore di uno stadio, lei la chiude per quattro stronzi? Sì, chiudo la curva. Chiudo la curva, certo. Scusami, chiudo la curva. Un debellatore, un democratico ipocrita. Ma scusa, ma Pietro, innanzitutto litri, da dove sta? Quanti ettolitri di vino ha bevuto? Aspetta, Pietro, da dove? Ma cosa dice? Poi parla, fa il democratico, il dispensore di sto cazzo. Pietro, da dove stai chiamando? Scusami, da una caverna. Sì, quello l'ho capito, da una caverna, da dove stai chiamando? Sì, sono nel lancio, sono sotto casa, sì, col cammino acceso. Perché? Cosa vuole lei? Ma Pietro, a parte che sembri un fake, sembri un po' finto, primo, con questa voce un po' impostata. Ma faccia un po' come vuole, ma non dica che deve chiudere una curva, perché la curva è il cuore dello stadio. Ma che c'entra se uno fa delle cazzate? Secondo me bisogna individuare i singoli responsabili, le responsabilità sono sempre individuali. Lui non è mai stato allo stadio. Una cosa meravigliosa segnatamente quest'anno, e chiude la curva, ma chi cazzo è? Scusami, Pietro. Una curva. Pietro. Non ha nemmeno un'opinione. Pietro è un dittatore. Pietro, scusami, ma tu fai queste cose per non essere riconosciuto, non ho capito. Cioè, sei un ultra della Lazio, sei uno che frequenta la curva della Lazio. No, certamente. La curva no, ma frequento lo stadio. Ma perché non fai la voce tua normale? Lei frequenta le enoteche, non gli anche gli stadi, però frequenta molte enoteche. Che gli ha detto anche il Berlusca che non tromba, si ha zitto. No, veramente ha detto che non si intende di femmine, non ha detto. Cosa vuol dire? Uno più uno uguale due. Vabbè, ciao Pietro, ciao. Giovanni Ferrara, vai Giovanni. Giuseppe, dimmi, io Giovanni. Non capisco perché trovi così assurdo il permesso retribuito per la cura degli animali. Cioè, per me è una cosa sacrosanta in un paese civile. Non è sbagliato, però, effettivamente. Cosa? Cioè, ma voi siete fuori dalla grazia di Dio. No, cioè, non mi pare una cosa così. No, Giovanni, scusami, se si apre in un paese di truffatori, in un paese dove ci si fanno i certificati medici falsi, voi volete che uno abbia le ferie pagate perché l'animale, qualsiasi male a questo punto, non solo il cane, anche il pappagallo, anche il pesce dentro l'acquario. Aspetta. Quando sta male un animale, uno dovrebbe avere il proprio animale. Uno dovrebbe avere un permesso retribuito, ma voi alla follia. Ti voglio raccontare cosa mi è capitato qualche mese fa. Improvvisamente il gatto si è ammalato, no? Allora aspetto che torna mio padre un'intera giornata fuori a lavorare, no? Da Ferrara. Corriamo a Padova nella migliore clinica, insomma, nel giro di due giorni di ricovero spendiamo 3.000 euro e i giorni in cui siamo dovuti stare lì, ovviamente nessun permesso retribuito, e per fortuna che mio papà ha potuto ricorrere, diciamo, alle proprie ferie, no? Perdi le ferie. Cioè, in un paese in cui ognuno fa quel cazzo che vuole da questo punto di vista, che ci sono furbi ovunque, non mi sembra una cosa così assurda. Ma io non ho capito qual è il problema. Ma qual è il problema? Non ho capito. Cioè, se uno ha un animale malato, cioè, trova il modo e il tempo per organizzarsi, punto e basta. Ma non tutti sono nelle condizioni di farlo, hai capito? Ma poi cioè, no, sono nelle condizioni di farlo solamente quelli che sono stipendiati col posto fisso, perché ecco, questo, quasi, sì. Quelli invece che non hanno questo, diciamo, tra virgolette privilegio, devono sistemarsi la vita e si sistemano anche nel caso in cui ci sono gli animali a stare male. Voglio dirti, ragazzi, ma non diciamo cazzate, dai, voglio dirti l'ultima cosa. Cioè, la sofferenza, la preoccupazione, l'ansia, ma che tu bene, provi, ma che vuol quando... dire? No, aspetta, che tu provi quando sei lì col tuo animale, secondo me, dal mio punto di vista, è molto superiore a quella che io proverei per molte persone che incontro, sono costretto a incontrare. Vabbè, Giovanni, questo qua è un ragionamento ridicolo, perché è chiaro che quell'animale ce l'hai vicino ogni giorno, mentre le persone, delle persone, no, non te ne frega un cazzo. Secondo me tu non fai uno sforzo di capire, ma che anche gli animali... Cosa c'entra il dolore che uno può provare per la morte di un animale col fatto che deve il permesso retribuito in ferie? Ragazzi, diventa una follia, uno mette... No, ma gli animali ti danno delle cose, dei sentimenti che secondo me sono molto più importanti. Ma non è vero, è perché sono ma questo perché tu c'hai qualcosa in testa che non funziona, perché evidentemente perché non riesci a relazionarti bene con gli esseri umani, dai, su. Ma io sono una persona normalissima, perché diventi gli maleducato? Ma io non sono maleducato, gli animali rappresentano un buco che uno ha, il riempimento di un buco. Se tu manca qualcosa, ti attacchi agli animali. Ma è normale ma che sia così. Ma non manca niente, Giuseppe. Vabbè, allora ti attacchi agli animali così, perché cosa? Scusa, non ho capito. Ma no, niente, perché c'ho il mio gatto e gli voglio bene come... E gli vuoi bene, se sta male ti organizzerai per assisterlo. E basta che non rompi i coglioni allo Stato, alle aziende, eccetera. Perché ma per me... no, in un paese civile dovrebbe in un paese esserci civile. Questa facoltà. Mo' i diritti delle ferie per gli animali malati. Ma ragazzi, ma che siete matti siete? Claudio da Forlì. Vabbè, dai. Adesso però se uno ma ha... dai, su, andando avanti in questo tempo, arriveremo alle ferie pagate quando uno ha il pesce dentro l'acquario che sta per morire e lo deve assistere negli ultimi giorni di vita. Dai, su. Claudio, si parte dal dito per arrivare al braccio, come sai. Claudio, dai. Buonasera, ciao. Dimmi. Allora, io volevo fare una considerazione a proposito di questa storiella delle violenze alle donne, fatte pazzerissimi, allora? Tutto quanto. Non si parla mai dell'inverso, cioè delle violenze fatte ai maschietti. Cioè? Molto raro, molto raro. Ma questo è raro che si sappia, ma non è detto che sia raro che avvenga. È successo a te, non ho capito. A me è successo a 14 anni, ne ho 64, facevo i disegni per strada, una bellissima signora ultra quarantenne, bellissima, mi comprò dei quadretti e poi mi invitò a fare un giro in macchina, mi portò in foresta umbra e avvenne quello che è avvenuto. Cioè, che è successo? Devo dire che mi sono trovato benissimo, però avevo 14 anni. Cioè, una signora di 40 anni ti ha portato in giro in macchina quando tu ne avevi... Sì, ero d'estate sul Gargano, facevo dei disegni appestici per terra, vendevo questi miei disegni a 300 lire, 500 lire. Che cazzo facevano i tuoi genitori mentre tu vendevi questi a 14... Bravissimi, i miei genitori erano nella villetta, non potevano pensare che alle 7 di sera, alle 8 di sera, alle 9 di sera... Mi si offrisse un giro in macchina. Cioè una signora di 40 anni ti ha scopato in macchina, in pratica? No. Una fellazio? Anche. Ma che ti ha fatto sta signora? Si può sapere? Hai detto il termine esatto. Ma figo. Cioè, ma poi hai avuto un rapporto sessuale completo? Non mi sembra una violenza così terribile. Beh, come no? 14 anni, 40 anni, tecnicamente è una violenza, penso, no? Non so, adesso... No, va bene, ma infatti questo però... Dopo ci ho pensato, però... Vi dico, poiché ho fatto un mestiere che mi ha fatto affrontare questo problema, per intanto, per quello che riguarda... Che mestiere hai fatto dopo, scusa? Io ho fatto il commissario di polizia. Dunque, un commissario di polizia, adesso sei in pensione? Sì. Cioè, la tua prima esperienza sessuale è stata una signora di 40 anni che ti ha trombato, questa è la sostanza. Bravo. E sei rimasto traumatizzato o no? No, mi sono trovato benissimo, però tecnicamente non è una cosa proprio... Fermo lì. La Zanzara. Sumi questa rom, David. Assumi Sabaeta, paraculo. Parenzo, guarda che va di moda l'arredamento minimalista. Assumi la rom, vedrai che minimalismo poi in casa. Vedrai. Parenzo, ora ci vuole un segnale forte, forte e inequivocabile, dopo tanti anni di discorsi, solo discorsi, un segnale fortissimo. Parenzo, assumi sto cazzo di rom! Prima di assumere Sabaeta, pagagli un corso di formazione. non vorrei mica che ti serva l'acqua in una bottiglia di plastica, eh? La zanzara. Sono contento dalla co, che ne manca un pesetco, che ne manca un sulinen, pio pio dal cuden. Allora, caro David, Paolo da Milano, direi. Paolo, vai, Paolo, caro, si continua. Vai, dimmi, caro, eccoci qua. Dunque, non vorrei, io faccio un intervento un po' paludato, se noioso ti interrompo. Ecco, appunto, ti interrompo subito, amico. Allora, no, perché ci sono vari modi di amore orale. Tu vuoi parlare di sesso orale? Vuoi parlare di sesso orale? Tra l'altro, oggi è uscita una cosa tremenda. Pare che il sesso orale fatto con più partner porti più facilmente, sia da parte dell'uomo che della donna, porti più facilmente al cancro, che è una cosa che io sento dire continuamente. Ci avete anche rotti i coglioni. È una cosa che terrorizza. Cioè, avere più partner, diciamo, in un lasso di tempo ristretto, cioè non frequentare solo una persona, ma fare più rapporti orali. Uomo, donna, donna, uomo, cioè il libertinismo da questo punto di vista porta una pare a una maggiore possibilità di prendersi un cancro, non so dove. Beh, vabbè, ragazzi, miei, quello si chiama papilloma, quello che è, sta, come si chiama? Cum? Swapping. Cioè, passarsi lo sperma da una ma quello che c'entra, non stavo andando in questo dettaglio. Ma non è quello il punto. Ma è Paolo che sta dicendo questa cosa. Io sto dicendo semplicemente che ci stanno terrorizzando con questa roba. Vabbè, Paolo, allora... sentire, no, semplicemente io sento parlare sempre di questo amore orale, a parte che non è un atto sessuale, come dice chiaramente il Sexist Gate di Bill Clinton, è stato assolto perché non ha fatto atto sessuale, ha fatto solo dell'amore orale con la Levista. Vabbè, ma non... quello che c'entra, ma importante, però è diverso. Perché importante, se fai la fellazio è una cosa, se fai l'irrumazio in ore è un'altra. Se fai, lo... se fai il penis... eh? Il? Irrumazio, latino. Hai fatto il liceo tu? Sì, sì, vabbè, sono un amico mio, tempo fa è successo però. Che vuol dire? Allora, la fellazio vuol dire... dal latino, perché... fellare vuol dire succhiare. Allora? Però allora, aspetta un attimo, che dobbiamo chiamare una persona, perché sennò perdiamo l'appuntamento. Resta lì, resta lì. Sarebbe la forma violenta di fellazio, no, sostanzialmente. No, aspetta, no, Paolo, che è interessante questa cosa qua. Aspetta. No, sennò quello se ne va. Allora, chiamiamo un attimo il sindaco di. Il sindaco di Prato, il quale sì, sindaco di Prato? Brava persona. Ecco, perché hai già letto questa roba qua? Sì, sì, ho visto la il notizia. Il sindaco di persona. Prato vuole sequestrare, ha già cominciato a sequestrare le macchine ai clienti delle prostitute. Molto stiamo bene. Andando nel Medioevo, nel Medioevo. Oh, anzi. Pronto? Sindaco? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve. Buonasera. Come andiamo, caro Biffoni? Come andiamo? Bravissimo, Biffoni, eh? Bene, si fa il meglio possibile, mettiamola così. Beh, il signor Parenzo, bravo, mi sembra che abbia un elogio Biffoni. da fare. No, lei è l'esponente classico della maggioranza silenziosa. Ha preso un provvedimento straordinario, deve essere preso ad esempio da tutti i sindaci d'Italia. Non voglio neanche sapere di che partito è lei per me. Non voglio neanche sapere, lei per me può essere di Forza Italia, dei 5 Stelle. Non me lo dica. Non voglio, so che è del PD. So che è del PD, ma non voglio neanche dirlo, non voglio sapere, so che è del PD. Ma quale sarebbe questo provvedimento? Ha preso provvedimento sulla vicenda delle prostitute, un provvedimento straordinario per disincentivare quei miserabili che fanno uso di carne umana, questo è il punto. Allora, mi sembrava solamente trovare un modo per cercare di regolamentare una roba che è anni di cui si discute, non si troverà mai un punto di, come dire, di soluzione, però si inventano i sindaci da quando è stata chiusa la legge Merlini, poi una roba per provare a gestire. Scusi, ma che c'entra il sequestro delle macchine? C'entra. Sequestro del mezzo? Beh, quello. Lei mi trovi, lei Cruciani, mi deve trovare un modo alternativo e più efficace per provare a dire alla gente, ragazzi, e non può funzionare. Ma che vuol dire non può funzionare? Una volta che lei lo fa, e le prostitute si spostano dei 10 metri, si spostano dei 50 metri. E lei continua a sequestrarle le ma macchine. Ma sequestrare le macchine? Ma quelle persone là hanno bisogno di andare a fare sesso? Certo, ma ma per carità di Dio, ma possono provarci magari come molti fanno, uno va in un locale, baccaglia, cerca, offre da bere, fa una roba fatta a questa maniera, altrimenti ci sono le altri appuntamenti, c'è i cose su internet, ora però per strada non si può, per strada è un caos, per chi sta sotto quelle case, per chi sta sotto quelle strade, per chi sta in quelle zone, certo. Si crea dei casini non banali, se decideranno di riaprire le case chiuse e di fare questi d'accordo? Di tornare indietro, lei è d'accordo? Ma io secondo me con le riaprire le case chiuse, vista l'aria che tira, secondo me conviene meglio riaprire le case chiuse. Conviene tornare indietro. Conviene tornare indietro, però, questo qua è positivo. Questa può essere una soluzione. Frattanto, no, sequestriamo i mezzi ai miserabili. Però fatemi, siamo non d'accordo che oggettivamente sulle strade. No, non siamo d'accordo, purtroppo sullo no. Sullo sfruttamento, sì. Ma sullo sfruttamento è la polizia che se ne deve occupare. Mica lo sfruttamento lei lo blocca sequestrando le macchine ai clienti. Però che se io blocco la domanda in qualche modo. Ma bloccare la domanda significa mettere a rogo, mettere alla berlina. Ma come no? Ma come no? Ragazzi, ma paga la multa, non solo la responsabilità di prendere la multa e di farsi sequestrare la macchina. Ho capito, ma ci sono delle povere persone che non hanno tempo di andare su internet, non conoscono i telefoni. Cruciani, ma chi va per sequestriamo la macchina? Ha ragione lui. Ma certo. Gli sequestriamo la macchina perché la macchina è il mezzo con il quale questi miserabili vanno a soddisfare le loro porcose voglie. Quindi noi, mi metto anch'io sindaco, faccio parte della giunta da questo punto di vista. Ma no, perché non è un moralista come te. Quindi noi gli sequestriamo la macchina. Quei poveracci che sono stati colpiti dalla sua ordinanza e che hanno la macchina sequestrata, che cosa hanno fatto di male? Sono andati lì, hanno trattato il prezzo con una signorina, l'hanno messa dentro la macchina. È regolamento polizia urbana del comune. Ma ho capito, ma con tutti i problemi che abbiamo, deve fare la multa dei 400 euro più la macchina sequestrata uno che è andato a trovare Mignotta e su. Allora, però, se tu ragioni così, Cruciani, si può dire: ma perché parcheggi su divieto dell'handicap per 5 minuti? Quello è diverso. Perché fai un torto a un disabile. Se s'apre la discussione sul benaltrismo, s'apre una discussione e diventa infinita. Perché allora dove c'è il limite? La multa la prende e il sequestro pure. Perché questo regolamento prevede... Ma la moglie se chiede com'è che non c'è più la macchina? Ho capito, ma ragazzo mio, ma non si assume le responsabilità nella vita. La fidanzata chiede come mai non hai la macchina e me l'hanno sequestrata perché sono andato dalla puttana nigeriana. Ma se la fidanzata una moglie, si assume la responsabilità di andare a prostitute. Ragazzo, assume la responsabilità in casa, ma sono tutti maggiorenni, hanno la patente, perciò sono tutti maggiorenni, sono tutti pensori adulti, fanno delle scelte. Uno si assume la responsabilità. Sì, ma facendo così, la responsabilità... E fa 200 sull'autostrada. Assumi il rischio di pigliare l'autovelo. Non è la stessa cosa. Però Cruciani, per te non è mai la stessa cosa. Tutti i sindaci d'Italia o comunque della Toscana dovrebbero fare la stessa cosa? Ma io penso, secondo me, almeno i nostri della nostra zona potrebbero fare un ragionamento comune. Cioè, tutti i sindaci della zona fanno un ragionamento. Dovrebbero sequestrare le macchine ai clienti delle prostitute. Vabbè. Beh, sarebbe un modo importante. Sarebbe un modo per organizzarla. Ma lì che succede nelle strade? Che succede nelle strade di Prato? Di così drammatico. Delle porcherie pazzesche. Come tutti i viali, diciamo, delle città. Ci sarà qualche viale con le prostitute, certo, che sarà mai? Non è che avere sotto le prostitute è come avere sotto l'ISIS. Cioè, ci sono delle prostitute. Ma perché non fa un bel parco a Prato, un bel parco del sesso? E non lo faccio. Io per questo non sono d'accordo. Se la regolamentazione non vuole fare, perché non crea degli spazi adatti, bellissimi, dei box come a Zurigo? No, ma non esiste. Ma a Zurigo fanno i che vogliono. Io direi di no. Ma fate tutto, ma non punire il cliente, che non c'entra niente. Il cliente va a trovare del punire. Ma faccia delle cose, metta delle transenne, faccia quello che vuole, blocchi la strada in un altro modo. È troppo semplice fare così. Dai. Non ce l'ha nemmeno lei la risposta. Non ce l'ha nessuno. Ma no, ma perché però, il problema non è suo, il problema purtroppo è del fatto che non mettono le case chiuse. No, aspetti, Luciano, lei ha ragione, però magari abitarci sopra è un problema, abitarci vicino è un problema. E se si può negare questo, si nega l'evidenza. Sindaco, la ringrazio, grazie. Grazie sindaco, avanti tutta, siamo tutti con lei, maggioranza silenziosa, milioni di italiani, gente per bene, gente che sta con la propria famiglia, con la propria donna, con la propria non va a prostitute con delle macchine. Bravo. No, non entriamo, siamo tutti con lei. È semplicemente una questione di decoro, non è questione di altro. Bravissimo, bravissimo. Murale lei ha mai frequentato questa signorina? Noi la sosteniamo. Lei ha mai frequentato? No, le dico non ho mai frequentato. Però è questione di decoro sulle strade. Arrivederci, grazie. Ciao. Arrivederci. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Oh Beppe, volevo dirti una cosa. C'è un fatto strano che mi è successo fino a poco tempo fa. Ogni volta che sentivo Feltre mi usciva un liquido dalle orecchie e non capivo che cazzo fosse. Poi mi è uscito anche dopo aver ascoltato Nike e Rivelli. Cioè, mi sono spaventata all'inizio, però poi ho collegato il tutto e ho detto, ma io ogni volta che godo, ma proprio godo a sentire quello che dice il direttore e anche la Nike Rivelli, godo fisicamente, ho capito, e iaculo dalle orecchie. Pazzesco, quando sento Feltre e Nike Rivelli, cioè godo così tanto che iaculo dalle orecchie. Vi è mai capitato? Allora, per la serie Tipi da Zanzara vorrei ricordare un ascoltatore delle scorse settimane, perché è un argomento collegato. Caro Parenzo, è un argomento collegato a quella voce in giro a Camaiore di donne locali, a Camaiore se non sbaglio, di donne locali che vanno a caccia di immigrati per sesso. Gira questa voce, circola questa voce. Tipi da Zanzara, Marco da Bergamo, vai. Tipi da Zanzara. Marco, mamma mia. Sì, buonasera. Dimmi Marco, dimmi. Buonasera. Allora, io volevo dire che sono un sindaco di un piccolo paese qui nelle valli bergamasche. Beh, allora... E nei centri di immigrazione, dove ci sono tutti questi bei giovanotti, sono frequentatissimi da donne che non vedono un uccello neanche se le butti in una voliera, e queste si affacciano ben volentieri a questi centri e entrano a fare sesso. No, ma non ho capito bene. Queste approfondiamo la cosa, scusa, è interessante. Sono donne che vanno nei centri. E vabbè, allora poco piacenti, vanno a farsi qualche scopata col Black Bamboo, questo vuoi dire? Sì, non se la fanno scappare. Volete sapere anche un'altra cosa, questa è un po' più rara, però. Che questi ragazzi prendono anche 2,50 euro, se non sbaglio, al giorno. E quando accumulano una certa cifra, e sono, si associano in persone, fanno entrare le prostitute anche nei centri, gliele portano. E pagano, fanno un prezzo, non lo so, di convenzione. Tipi da Zanzara. Tu non ci credi a questa storia di donne italiane o comunque donne locali che vanno a cercare sesso dagli immigrati, caro Davide? Mi sembra una grandissima boutade per, come dire, gettare discredito come al solito sul fratello discredito? Migrante. Ma perché sul ricercatore di felicità? Ma sarebbe una cosa positiva. Creare zizzanie sui territori, creare zizzanie, mettere all'allerta i mariti, no? I mariti che vanno a lavorare, che magari votano Lega, e quindi no, mi sembra proprio una stupidaggine. Allora, eravamo con Paolo da Milano che vuole distinguere tra rapporto orale e rapporto orale. Perché questa distinzione, perché? Paolo? Bisogna farsi approfondimenti, perché? Aspetta, senti Paolo. Ma perché? Dimmi, perché Paolo. Perché questi approfondimenti? Dimmi. Allora, che distinzione volevi fare? Non ho capito. No, sono diverse, i vari rapporti amorosi orali. L'irrummarsi e l'affellarsi sono due cose diverse. C'è il teabagging. Cioè, in alcune di queste pratiche, la donna ha una funzione assolutamente passiva. Se diventa attiva, allora realmente c'è un rapporto. Cioè, per esempio, l'irrumazio è usare la come bocca si chiama, come là? Irrumazio, la studiate un po', ragazzi, però. Ma Parenzo lo sa. Irrumazio è una parola latina che sarebbe il liceo classico, sarebbe l'irrumazio, sarebbe quello che gli inglesi chiamano, visto che sono a New York, il blow job, sostanzialmente. Il blow job è il classico pompino, sì. L'irrumazio è quando l'orifizio boccale, cioè la bocca, viene usata come un orifizio passivo, cioè come se fosse una cosa che vuol dire perché se le signorine di qui sopra hanno subito l'irrumazio, evidentemente sono state violentate. Ma se hanno fatto il pennilingus oppure l'affellazio, hanno partecipato in maniera attiva. Quindi sono ancora più responsabili, nel senso che non sono state violentate, ma hanno partecipato in maniera attiva. Cioè è diverso. Il teabagging, per esempio, che dato che come si chiama, Parenzo da New York, sa benissimo cos'è. No, non lo so manco io. Ma come non lo sa? A New York, in America, l'americano. Come si chiama questo teabagging? Il teabag è il sacchetto del tè. Allora si mette nella bocca di lei una cosa pendente. È una cosa pendente che ha l'uomo, ma si chiama teabag. Allora, il tea banging è una cosa che realmente è di violenza, perché la donna non fa nulla, riceve solamente. Ma invece, perché deve parlare di questa cosa? Ma perché, ad esempio, non possiamo parlare? Lui sta dicendo... Ma perché è diverso, è diverso, cioè è l'atteggiamento diverso. Vabbè, tu avevi, volevi fare questa distinzione perché distinguendo tra questi rapporti orali si riesce a capire secondo te se c'è violenza o no, ma mi pare una puttanata. Ci può essere anche nel caso di partecipazione se uno viene costretto a farlo, cosa vuol dire? Cioè, basta che non partecipi, comunque ti informo te anche quel maiale che sta telefonando. Ad esempio, visto che sono a New York, in particolare a Wall Street, ti dico che anche Wall Street, contro le famose discriminazioni e molestie sessuali, proprio oggi ha licenziato due dirigenti dopo quel caso lì. Questo per dirti che non è che riguarda soltanto il mondo del cinema, non conosciamo nemmeno i casi, anche il mondo della ma non finanza. Conosciamo nemmeno allora, le cose che sono successe. È la notizia di poco fa, lo vedrai, lo leggerai. Come? Dopo il caso, ci scrive proprio scritto: dopo il caso Weinstein, la decisione presa da una società di investimento a Wall Street che ha deciso di cacciare ma due dirigenti per supposte molestie sessuali. Intanto le hanno licenziate. Intanto. Allora ragazzi, voi non lo sapete, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, ma esistono i matrimoni tra cani. Cioè esistono delle aziende che ovviamente sono dei geni a fare queste cose, ma ci sono dei gonzi che abboccano a fare i matrimoni, che fanno dei matrimoni, offrono il loro menù dei matrimoni per i cani. Allora, i prezzi sono questi. Offerta, per esempio, di un'azienda, offerta oro. Cioè, tu paghi 1000 euro di base. 1000 euro di base per arco nuziale, cerimoniere, fiori a tema, tappeto bianco, pergamena celebrativa, collana con ciondolo Swarovski con incisione, portafedi, cuscini. Poi c'è la torettatura professionale dedicata, abiti da sposi, per lui noleggio abito frac, per lei noleggio abito da sposa con velo, per i cani. Poi c'è anche il dolce a un piano. Tutto questo, fotografo, tutto questo 1000 euro. Servizi non inclusi, trasporto a domicilio, giardino esterno con serra, 400 conigli a disposizione. Poi l'aperitivo per gli invitati, 25 euro a ciascuno, corner formaggi, verdure, che ne so, magari anche i cani. E poi c'è anche, ripeto, le partecipazioni scritte, 3 euro ciascuna. Ma io posso fare il mio matrimonio con il catering dei cani? Cioè chiedo, perché invece la cosa diventa interessante. Se far sposare i cani costa 1000 euro, in genere un matrimonio normale costa almeno 3, 4, 5, anche di più, anche 20.000, 30.000, 40.000 euro. Se tu vuoi sostituire... Allora si può... Esatto, io vorrei accedere, no? Qualora un domani mi risposassi, vorrei accedere alla possibilità di usufruire del, come si dice, del matrimonio dei cani. Ma cosa succede? Cosa succede in questi casi? Pronto? Sì, buongiorno. Parlo con la mansarda 41. Sì, buongiorno. Noi abbiamo due meravigliosi, bellissimi Scottish White Terrier. Che meraviglia. E si amano alla follia. Li chiamiamo, guardi caso, Giulietta e Romeo. Organizzate tutto un matrimonio per cani. Sì, per loro diventa un celebrare il matrimonio, ma diventa una giornata di giochi, di cibo per loro dedicato. Quindi si va a creare, diciamo così, una giornata da trascorrere proprio con loro. Ho visto qua proprio la foto di questo cane nero con il velo, l'altarino. Si organizza tutto, dal cibo, dall'allestimento, quindi della cerimonia. E poi noi possiamo ovviamente occuparci di tutto quello che è il matrimonio. Cioè in pratica voi li vestite, diciamo. Esatto, quindi vengono così preparati. Beh sì, come in uno sposalizio tra umani, insomma, esatto. Certo. Dalla togliettatura con la quale noi collaboriamo, che è di cornuda, vengono vestiti da loro e poi si celebra questo rito. E i nostri due cani vengono posti davanti a questo altarino, giusto? Esatto, dove c'è una persona che fa parte proprio dell'organizzazione che legge quello che è il rito, no? Ah, quindi proprio lui legge, vuoi tu, sì. Giulietta, vuoi tu sposare qui? Sì, c'è proprio un rito, c'è lo scambio delle sedi proprio, sono due piccoli anellini che vengono posizionati sulle unghie. Ma con dentro scritto proprio il nome, ad esempio all'interno il nome di Romeo per Giulietta e di Giulietta per Romeo? Esatto, poi questo... questi anellini noi li possiamo applicare poi anche al collare. E quindi voi li preparate con toilettatura, li fate belli come si conviene, esatto. Li vestite, quindi il velo per la cagnetta e per il cane, non so. Sì, abbiamo sia il gilettino, c'è la semplice cravatta, c'è il papillon, insomma si può decidere. Ah, col papillon sarebbe una meraviglia, Romeo, già lo vedo. Sì, c'è sì, anche sì. Il frac. In realtà. Ma c'è anche una torta nuziale per cani? Possono essere dei biscottini, sempre ovviamente per loro, oppure può essere anche proprio un dolce. Nella stagione estiva facciamo anche il gelato per i cani. Pensate, sì? Anche, non so, agli inviti, partecipazioni. Tutto quanto. La cosa bella è che ovviamente sono invitati sia gli amici di famiglia e i relativi amici a quattro zampe. Signora, grazie a lei per le informazioni e ci sentiamo presto. Arrivederci. Cioè, questi hanno, non mi dite che questa roba qua, l'altarino, gli anellini, non mi dite che questa roba qua non è violenza nei confronti degli animali. Cioè, no, questa è violenza nei confronti degli animali. Sicuramente. Cioè, ma mi scrive giustamente un ascoltatore, dice: ma l'anellino dove lo mettono poi ai cani? L'anellino dove vuoi che lo mettono? Nelle unghie? Ma dai, su, ma ragazzi, ma questa roba qui andrebbe vietata. Come nelle unghie? Andrebbe nel ditino dei cosi, nel ditino dei piedi. Come fanno a camminare poi, scusa, con l'anello? Appunto, è una violenza nei confronti degli animali. È una molestia, su, questo non si può fare. Dove andiamo qua? Dove andiamo? Antonio, provincia di Roma, dai, Antonio. Oh. Pronto? Dimmi, pronto? Ecco. Niente, volevo fare alcune riflessioni riguardo alla potenza delle donne. Che la succede? Femminile. Qual è la potenza delle donne? La potenza delle donne. Allora, dobbiamo fare una premessa che chiaramente la potenza dell'uomo risiede nella potenza fisica e le donne, essendo soggetti più deboli fisicamente, hanno, diciamo, la loro potenza nella furbizia, l'hanno sviluppato nel corso dei secoli, è così. Quindi noi, diciamo, applichiamo... Allora? Delle forze. E allora, per venire a questo contenuto, che praticamente noi uomini abbiamo ceduto praticamente parte del nostro potere, perché praticamente abbiamo concesso delle libertà estetiche. E in che senso? Scusa, non ho capito. La libertà cosa stai dicendo? Ma che vuol dire? Scusa. Abbiamo delle convenzioni sociali per cui, per esempio, loro hanno il vestito unico, per esempio la gonna, possono... utilizzare solo loro la gonna, per esempio. Ma non capite, allora? No, lei va in Scozia, lei può mettersi il kit, ad esempio, se vuole. E allora? Simbolo sessuale. Allora, noi siamo, diciamo, su di questi, diciamo così, simboli che abbiamo riconosciuto noi uomini. E dunque che cosa dovremmo fare? Dovremmo coprire le donne, non ho capito. Allora, e veniamo a coprire le donne. Perché gli arabi coprono le donne? Ah, perché non gli arabi coprono le donne? Non per proteggere, ma per proteggere gli uomini dal potere che esercitano con la loro bellezza le donne. Ah, dunque, secondo lei, per eliminare tutti i problemi, dovremmo coprire le donne, tornare a coprire le donne. No, non è un problema, è semplicemente un dato di fatto che loro esercitano giustamente il loro potere in questo modo. Ma chiaramente, tu sei malato di mente. La bellezza, cosa vuol dire la bellezza? Tu è un potere, malato. Sì, ma è un tu potere, ma l'uomo, ma che vuol dire? È così, questo è il potere delle donne, la bellezza. E allora? Noi non possiamo dipingerci, noi allora? Non possiamo mettere il rossetto. E che dobbiamo noi fare? Ce l'abbiamo concesso. E dunque? Allora, facciamo l'esempio al contrario. E dunque che dobbiamo fare? Dobbiamo togliere questo potere? Io non propongo soluzioni, do soltanto... risposta a quello che è successo con ma altri. Magari ma per fortuna ma per fortuna gliel'abbiamo concesso per fortuna ma io mica sto dicendo il negativo, io sto dicendo solo un dato di fatto. Ciao Anto, ciao. Ragazzi, a domani, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.